giorno. Ed eccoci per una di queste nuove puntate del periodo natalizio, delle puntate nelle quali abbiamo deciso di approfondire, come sapete, come vi abbiamo già raccontato, alcuni argomenti. Non c'è il sottotitolo della nostra trasmissione, le notizie in 60 minuti, e questo lo avete sentito bene, perché sempre di notizie parliamo, ma lavoriamo un po' di più sull'approfondimento. Quest'anno, dal punto di vista della politica internazionale, della politica estera e dei fatti che sono successi, lo possiamo rappresentare con due eventi probabilmente. Sicuramente è l'esplodere della vicenda ucraina, le tensioni con la Russia proprio a proposito dell'Ucraina e con l'Unione Europea, ma certamente la possiamo rappresentare quest'anno anche con l'avvento sulla scena tanto internazionale quanto mediatica del cosiddetto califfato dell'ISIS. Saluto Germano Dottori, docente di studi strategici alla Luis Guido Carli di Roma. Buongiorno Dottori, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori sintonizzati. E anzi, bentornato ai nostri microfoni, così come do il bentornato ai nostri microfoni ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, di nuovo buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti voi. Voglio farvi sentire, prima di iniziare, un brano di un'intervista che abbiamo realizzato con Marco Minniti, che è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha la delega sostanzialmente ai servizi segreti, ai servizi di sicurezza, con cui abbiamo voluto parlare anche proprio di questa minaccia. Ci ha detto Minniti in sostanza che è una minaccia particolare, per certi versi nuova, perché ha una capacità tanto di stare in guerra, per così dire, sul territorio, in Siria come in Iraq, quanto di colpire all'esterno. Sentiamo un brano di quello che ci ha detto Minniti e poi ne parliamo con i nostri ospiti. Noi abbiamo un'organizzazione, ISIS, adesso si chiama più comunicante IS, cioè nel senso Stato Islamico, per segnalare anche il fatto che lo Stato Islamico non ha un confine territoriale delimitato come poteva essere l'Iraq e il Levante, e che ha insieme una doppia capacità, una capacità di una iniziativa propriamente simmetrica, che è quello di fare la guerra come comunemente viene intesa. Questo è quello che è avvenuto in Siria, in cui IS ha preso il controllo di una parte significativa della Siria, è quello che è avvenuto e sta avvenendo in Iraq, dove ha preso il controllo di circa un terzo dell'Iraq, è quello che avviene anche in alcune realtà, come lei citava prima, di altri paesi, come per esempio la Libia, citava il caso di Derna. A questa capacità simmetrica, che è tipica, diciamo, della guerra, c'è una capacità asimmetrica che è appunto tipica delle organizzazioni terroristiche. Non era mai avvenuto prima che un'organizzazione tenesse insieme tutte e due le cose. E da questo punto di vista noi abbiamo di fronte quindi una capacità di colpire che è sicuramente notevole, che avviene attraverso due modalità fondamentali. La prima è quella di poter utilizzare in futuro, di poter utilizzare anche adesso, i cosiddetti foreign fighters, cioè coloro che stanno combattendo in questo momento, che hanno combattuto in questo momento nel teatro siriano e nel teatro iracheno, che sono europei, che provengono dall'Europa, e quindi farli Europa, esatto, e che in Europa potrebbero tornare, questo è un fronte di preoccupazione. Tornare, quindi da questo punto di vista non è semplicissimo la possibilità di poterli, tra virgolette, individuare, perché sono cittadini europei, sono col passaporto europeo per intenderci. Infine, se mi è consentito, sì. Noi abbiamo in Italia uno strumento che io considero un piccolo gioiellino. Lo strumento è il Centro Antiterrorismo, diciamo, che si chiama CASA, diciamo, l'acronimo è CASA, diciamo, che tiene insieme le forze di polizia e tutte quante le forze dell'intelligence. Noi abbiamo un collegamento in tempo reale, tutte le informazioni che c'ha l'intelligence vengono immediatamente riversate alle forze di polizia, tutte le informazioni che c'hanno le forze di polizia vengono immediatamente riversate all'intelligence, e questo è uno strumento fondamentale. Io sogno e mi batto perché ci sia un caso europeo. Allora, Germano Dottori, lo ripeto, docente di studi strategici alla Luis Guido Carli di Roma, concorda col fatto che ci troviamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo? Poi verremo all'aspetto più strettamente terroristico, se vogliamo, che è forse il fronte che ci preoccupa di più, visto anche per esempio il caso di Sydney e quindi l'ipotesi che anche dei lupi solitari o semplicemente dei pazzi si intestino una battaglia violenta senza la necessità da parte di questa organizzazione di creare degli attacchi terroristici pianificati. Però concorda che ci troviamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo? Ma io piuttosto ritengo che in realtà stiamo assistendo a un'evoluzione del progetto jihadista che inizialmente nella forma dell'Al-Qaeda storica cercava attraverso il metodo terroristico di modificare l'ordine politico in alcuni paesi chiave del Medio Oriente e del Nord Africa. Sostanzialmente il focus fondamentale erano l'Arabia Saudita e l'Egitto, successivamente è diventato importante anche il Pakistan in questa prospettiva, ma non si era mai pensato di dar vita a un ordinamento giuridico proprio. Mentre questo dato della territorializzazione dei movimenti jihadisti, che non è propria soltanto dell'ISIS, ma contraddistingue anche Boko Haram, credo che sia il fatto, l'evoluzione nuova presa da questo fenomeno. Non c'è una soluzione di continuità, perché molti dei soggetti che erano impegnati nel precedente progetto stanno passando a contribuire alla realizzazione di quest'altro, e lo stesso ISIS è diventato un calderone nel quale sono verosimilmente confluiti anche spezzoni della Fratellanza musulmana dopo i colpi che alla Fratellanza sono stati inferti a partire dal 2012. Ci sono delle similitudini estremamente interessanti tra quello che è accaduto all'ISIS a cavallo tra l'Iraq e la Siria da un lato e quello che sta avvenendo all'Ansar alla Sharia in Libia. Molti di questi soggetti jihadisti stanno cominciando a offrire servizi di welfare, cioè mutuando un tipico modus operandi della Fratellanza musulmana e di Hamas, che sono organizzazioni di tipo del tutto, che avevano una storia del tutto differente. Quindi diciamo che ci troviamo in una situazione molto fluida, in cui è anche difficilmente leggibile la catena, di alimentazione e dei supporti politici ed economici esterni. Dall'impressione, Alberto Negri, da quello che ci ha detto Dottori, da quello anche che abbiamo sentito da Minniti, anche se come abbiamo sentito Germano Dottori non concorda pienamente, perché vede una continuità ideale maggiore probabilmente di quella che vede Minniti, anche se parlava in realtà il sottosegretario di questioni forse più puramente operative, sembra che ci troviamo di fronte ad una minaccia realmente, lo diciamo sempre, abbiamo detto anche ai tempi di Al-Qaeda, però il pericolo sembra maggiore, cioè la capacità di strutturarsi e di creare un franchising anche sui territori di appartenenza, per così dire, mi si perdonerà il termine da business, sembra molto più forte, Alberto. Ma dunque, qui ci troviamo di fronte a fenomeni complessi, dove ci sono delle evoluzioni, come diceva Germano prima, molto giustamente, e ci sono anche degli stacchi rispetto al passato. Le evoluzioni sono quelle di organizzazioni sul territorio che spesso hanno membri che appartenevano anche a vecchie organizzazioni che facevano riferimento ad Al-Qaeda, basti pensare all'ACMI, ad Al-Qaeda nel Maghreb o alle filiazioni di Al-Qaeda in Yemen o in Iraq. Lo stesso Stato Islamico ha una genesi che viene dall'organizzazione di Abu Zarqawi, che fu ucciso nel 2006, che aveva fondato Al-Qaeda nella terra dei due fiumi. Quindi c'è una, come dire, evoluzione e una continuità rispetto al passato. Poi c'è uno stacco più profondo con Al-Qaeda di Osama Bin Laden, e che quella era un'organizzazione di elite strutturata in cellule, guidata da una leadership di veterani dell'Afghanistan, della Bosnia, dello Yemen, con forti radici ideologiche e religiose, che metteva in atto azioni spettacolari come quella dell'11 settembre. Insomma, era un'organizzazione più strutturata dal punto di vista, se vogliamo, ideologico e operativo. Questa vecchia guardia non controllava più le nuove leve e aveva bisogno di reclutare, e quindi ha dovuto accompagnarsi con un'evoluzione che ha segnato però anche un distacco con il passato. Ha sfruttato al massimo i messaggi attraverso le reti del web, i social media, per calmitare le nuove generazioni dei nativi digitali, e anche lo stesso messaggio si è in qualche modo impoverito, è fatto più di slogan religiosi, più semplificati, violenti, e si è fatto strada nel mondo globalizzato. Dall'altra parte c'è l'aspetto forse più strategico della questione, l'aspetto più strategico che è legato al fatto che il califfato ha un territorio che Al-Qaeda non aveva. Benché possedesse dei santuari ben solidi in Afghanistan e Yemen, non aveva certamente un controllo del territorio come quello che può vantare il califfato oggi, 100.000 km quadrati, 10 milioni di abitanti circa. E anche questo è un aspetto importante e soprattutto può influire sulla situazione, che ha due aspetti per noi preoccupanti. Una, quella dei foreign fighters, cioè dei combattenti stranieri arruolati nel califfato che potrebbero tornare indietro e causare dei problemi. E la seconda è invece quella del terrorismo o del microterrorismo più diffuso, che si appoggia appunto sulle reti web, sul reclutamento in centri religiosi, in moschee, con seguaci di imam dagli improbabili curricula religiosi. Ecco, tutto questo può essere molto, molto più pericoloso rispetto al passato, perché è assai più difficile da controllare. Bene, quello che ci dici, Alberto Negri, mi sembra molto interessante, ed è poi il tema sul quale io vorrei tornare tra un attimo, dopo la pausa, anche con Germano Dottori, su questa difficoltà effettivamente a controllare una forma di terrorismo nuova, una forma di microterrorismo, come tu l'hai definita, cioè non più attentati organizzati su larga scala, come per esempio quelli dell'11 settembre, ma piccoli attentati nei quali chiunque, anche un matto appunto, una persona instabile psicologicamente, può intestarsi una ipotetica battaglia dell'ISIS e sotto la sigla dell'ISIS eventualmente compiere un piccolo attentato, un piccolo assalto. Io vorrei capire da Germano Dottori quanto sono le intelligence europee, anche sulla base di quello che abbiamo sentito poco fa dal sottosegretario Minniti, ossia il fatto che non si parlano, ma anche se si parlassero, se possano mai essere in grado di contrastare una minaccia di questo genere. Però prima abbiamo una pausa. Effetto giorno. E di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Eccoci, siamo in una delle nostre puntate di Natale, delle puntate nelle quali stiamo approfondendo una serie di argomenti che abbiamo trattato nel corso dell'anno, cercando di proiettarci, se possibile, anche sul futuro. Oggi ci stiamo occupando, abbiamo deciso di dedicare un po' più di spazio anche alla questione dell'ISIS, perché quello che dicevamo in apertura è che se dovessimo definire quest'anno da un punto di vista della politica estera, dei fatti esteri che sono avvenuti, è stato sicuramente da una parte l'anno della conclusione della rivolta di Maidan e delle tensioni tra la Russia e l'Europa per l'Ucraina, e dall'altra parte l'anno dell'ascesa del califfato, non solo dal punto di vista della presenza militare tanto in Siria quanto in Iraq, e con eventuali estensioni e propaggini per esempio in Libia, ne parleremo tra un attimo, ma anche da un punto di vista della capacità di colpire naturalmente con terroristi, con i cosiddetti lupi solitari. Un caso, l'abbiamo visto recentissimamente, è il caso di Sydney, quando anche uno squilibrato può mettere una bandiera dell'ISIS o una bandiera islamica e intestarsi un eventuale assalto terroristico. Vorrei capire da Germano Dottori, docente di studi strategici alla LUISS, che è ancora in linea con noi, che possibilità hanno le intelligence, anche nel caso nel quale si parlassero più intensamente, come abbiamo sentito poco fa la voce del sottosegretario Marco Minniti auspicare questo, anche nel caso si parlassero un po' più intensamente, riuscissero a scambiarsi le informazioni, le intelligence secondo lei potrebbero riuscire in qualche modo a contrastare questa minaccia? Ne sono in grado? C'è un modo secondo lei? Cioè, che capacità di controllo abbiamo di queste situazioni? Secondo me molto bassa, anche perché la nuova nuovo profilo che hanno questi potenziali terroristi è differente. Sono persone che non necessariamente abbracciano questa attività come una professione, ma che magari pianificano per un certo periodo di tempo, nel più assoluto silenzio e nella più assoluta discrezione, un'azione che può essere anche individuale, peraltro mascherando il proprio comportamento. E questo è un elemento che ha descritto molto brillantemente Khaled Fuad Alam nel suo volume più recente I jihadisti della porta accanto. Cioè, ci dobbiamo aspettare gesti eclatanti anche da persone che apparentemente conducono uno stile di vita non islamico e tantomeno di carattere salafita o di estremo rigore religioso. Il tutto perché poi alla fine, nella concezione che abbracciano queste persone, ciò che conta è la testimonianza finale che si dà con l'atto decisivo violento che giustifica tutto quello che è stato fatto in precedenza per nascondersi. In questi casi qui veramente si può essere pescati dall'intelligence soltanto con dei colpi di fortuna. Anche i grandi sistemi di intercettazione globale in realtà non sono tarati, che se ne dica, per questo tipo di risultato, quanto piuttosto in funzione dell'esigenza che hanno alcuni paesi di capire che cosa bolle nella pancia delle nazioni, delle opinioni pubbliche, e in qualche modo in questa maniera orientare il proprio comportamento per assicurargli il massimo del consenso. Credo che siamo in una prospettiva molto molto diversa rispetto alla quale esistono purtroppo poche difese. Ultima domanda è per Alberto Negri, a proposito di un'altra questione che ci riguarda molto da vicino, ci riguardano anche le altre naturalmente, però vorrei parlare con te, Alberto, della Libia. Si è citata Derna, città sostanzialmente conquistata dagli islamici, in un paese che è completamente nel caos. Vorrei capire che rischi intravedi di un'estensione di questa espansione. Beh, i rischi ci sono, tant'è vero che preoccupano assai i vicini della Libia, dall'Algeria alla Tunisia, che hanno già visto l'infiltrazione di questi gruppi salafiti, specialmente la Tunisia. Non dimentichiamo quanto è accaduto l'anno scorso, prima che si imboccasse una stabilizzazione del paese quasi eroica da un certo punto di vista. La Tunisia per un anno e mezzo è stata percorsa da gruppi salafiti che si erano impadroniti quasi di mezzo paese. Insomma, quindi ci sono grandi pericoli, per non parlare dell'Algeria che, come sappiamo tutti, è reduce da quel decennio di piombo degli anni 90 che fu insanguinato dal terrorismo e dalla guerra al terrorismo. Quindi il pericolo maggiore, secondo me, che viene dalla situazione libica è dai mezzi e dai metodi che verranno utilizzati per contrastare il radicalismo islamico. E noi vediamo che purtroppo i mezzi che vengono utilizzati oggi sono quelli di gruppi armati che fanno soprattutto i loro interessi. Sì, combattono Ansar e Sharia, come fa il generale Khalifa Haftar, lo fa con il sostegno dell'Egitto, che ha degli interessi potenti in quella parte della Cirenaica al confine con l'Egitto, ma dobbiamo anche renderci conto che molto spesso questi mezzi, invece di costituire un successo nella lotta al terrorismo, spesso e volentieri hanno costituito invece un incoraggiamento al reclutamento dei gruppi più radicali. Lo sottolineava prima anche Germano, cioè il fatto che Ansar e-Sharia si ponga oggi con metodologie sul territorio che ricordano quelle dei Fratelli Musulmani o di Hamas, e deve far pensare. E quindi che cosa bisogna trovare? Bisogna trovare delle soluzioni politiche. Nel caso della Libia la soluzione politica sta assolutamente nel dialogo fra il governo di Tripoli, quello non legittimo, considerato non legittimo, e quello che in esilio Tobruk, considerato legittimo ma con poche basi in realtà di consenso, e quindi bisogna trovare tra questi due poli un punto di mediazione, altrimenti il paese scivola ulteriormente nel caos. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, e grazie a Germano Dottori, docente di studi strategici alla LUISS. Noi adesso ritorniamo sulle vicende di Mafia Capitale e sulle indagini che stanno caratterizzando questa vicenda. Vi abbiamo parlato ieri degli affari che si fanno sulla gestione degli immigrati, oggi vi parliamo sempre con Valentina Furlanetto degli affari che si possono fare e che in parte questo gruppo criminale sul quale indaga la Procura di Roma stava cercando di fare sui campi rom. Quest'anno abbiamo chiuso con 40 milioni di fatturato, dice Salvatore Buzzi, il braccio destro del sovramondo di Massimo Carminati, un'intercettazione telefonica. Ma come si fanno i soldi con i campi rom che tanto piacevano a Buzzi? Solo per la gestione dei campi rom situati nella capitale, che ospitano 8.000 persone, il Comune di Roma ha speso negli anni decine di milioni di euro. Come entravano nel sistema? Il campo di Castelromano, ad esempio, viene spesso citato nelle carte dell'inchiesta perché coinvolge direttamente due dei principali indagati della Procura di Roma, Massimo Carminati, ex NAR e per il GIP capo e organizzatore della Cupola Romana, e Salvatore Buzzi, amministratore delle cooperative riconducibili al gruppo Eriches 29 giugno. Proprio questa Onlus aveva avuto in gestione il campo di Castelromano, a una trentina di chilometri dal centro di Roma. È un campo nato nel settembre 2005, ma ampliato tra il 2010 e il 2012. Per la fondazione era stata sollevata la questione di emergenza. L'emergenza serve sempre a fare i soldi, perché permette le deroghe. Sotto emergenza tutti i paletti vengono giù. Dobbiamo agire come durante un terremoto, spiegava infatti il vice capo segreteria di Walter Veltroni, Luca Ovadine, ora agli arresti. E così si andò per chiamata diretta, senza bando, senza gara, oltre 5 milioni di euro i costi per la gestione, che Buzzi ha ripartito così. 3.700.000, il 70%, andava alla Onlus stessa. Solo il 17% andava alla sicurezza, il 12% alla scolarizzazione e uno zero tondo e preciso a quanto investito nel 2013 per l'inclusione sociale. Rende più della droga, diceva Buzzi, ed aveva proprio ragione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come sempre, in chiusura di queste puntate c'è una storia di sport da quest'anno. Ieri vi abbiamo parlato dei mondiali, che tutti noi naturalmente preferiremmo dimenticare. Brasile, ieri abbiamo parlato di Brasile e Germania, finita 1-7, una partita per molti aspetti storica. Bene, chiudiamo il capitolo mondiali, così chiudiamo il pacchetto e non ce lo ricordiamo più. L'approdo di Conte, l'abbandono della Juve, l'arrivo in nazionale e qualche speranza naturalmente per l'europeo, sempre con il nostro Dario Ricci. Io ho preso un impegno con persone che mi hanno cercato in maniera entusiasta, quindi il presidente Tavecchio, ho preso un impegno con il popolo italiano, col tifoso italiano, un impegno talmente grande che mi responsabilizza talmente tanto che escludo a priori questa evenienza. Che Antonio Conte concluda il suo 2014 allontanando l'ipotesi delle sue dimissioni da CT della Nazionale appare quantomeno paradossale. Sì, perché questo è stato l'anno del valzer delle grandi panchine, innescato dal flop azzurro a Brasile 2014. Il KO contro l'Uruguay a Natal porta alle immediate dimissioni del CT Prandelli e del presidente federale Abete. La crisi al vertice della FIGC si chiude con la controversa elezione di Carlo Tavecchio, cui è affidato il compito di trovare un nuovo timoniere per la nazionale. Nel frattempo la rottura più clamorosa, i dissidi di fine stagione, non placati dal terzo scudetto consecutivo con record di 101 punti, diventano rottura fra la Juventus e lo stesso Conte, che dice addio alla vecchia signora dopo appena un giorno di raduno estivo. I bianconeri corrono ai ripari chiamando Max Allegri, esonerato a febbraio dal Milan per far spazio al miraggio Seedorf e che pure all'azzurro un pensierino ce l'aveva fatto. Alla guida degli azzurri ecco invece proprio Conte, che macina vittorie ma che solo a sprazzi riesce a far rivedere bagliori della sua Juventus vincente. Questione di uomini, di spazi e tempi per la nazionale, di maturità dei nostri giovani, di livello complessivo del nostro calcio. Temi che lo accompagneranno in panchina anche per tutto il 2015. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto anche per oggi per Effetto Giorno. I ringraziamenti: Filippo Aureggi in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre, l'email effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, puntate natalizie come sapete che non comprendono il primo quarto d'ora dedicato all'informazione pura, al giornale radio in queste due settimane. Dunque ci risentiamo domani alle 13:15.